Allora, gli ambienti militari, fin dalla Seconda Guerra Mondiale, hanno insistito per avere delle armi sempre nucleari, ma più controllabili. Allora, per far questo, era necessario liberarsi dalla massa critica, cioè avere un diverso meccanismo di funzionamento che non richiedesse la massa critica. Allora bisognava trovare un meccanismo per cui i nuclei di uranio si rompessero per un processo, diciamo così, collettivo, non perché c'era questo, questo meccanismo proiettile bersaglio. Allora l'alternativa è quella di avere un campo esteso, per esempio un campo elettromagnetico, dotato di frequenza sufficientemente alta, che prende tutta questa massa di nuclei, la fa vibrare, è come quando un'automobile becca una risonanza. Cioè, voi guidate un'automobile, per esempio, su una pista del deserto, che sono ondulate, così, sotto l'ondulo, allora la macchina comincia a entrare in vibrazione e i chiodi cominciano a cadere, la macchina si schioda. Allo stesso modo, uno può pensare ai nuclei, anziché di romperli per impatto con un proiettile, di scuoterli e schiodarli, per cui boh, vengono. Allora ci vuole un campo esteso che quindi non ha il problema, che non è particellare, quindi non ha il problema che debbo cogliere il bersaglio, è un oggetto, quello che uso, un oggetto esteso che non può non cogliere, perché io prendo questo campo elettromagnetico che è esteso, continuo, e con questo io scuoto questi nuclei. Dice, brillante idea, però chi è che produce questo campo elettromagnetico? Allora si scopre, e qui gli studi si incrociano con un altro genere di studi, che un campo elettromagnetico intenso ed esteso può essere prodotto da un fenomeno nucleare di tipo diverso, che non è la fissione, e che, e qua cominciate un po' a capire certi misteri della scienza più contemporanea, ed è quel processo nucleare che è andato sotto il nome di fusione fredda. La fusione fredda non è un processo particellare, ma è un processo collettivo in cui i nuclei vengono fatti, i nuclei in questo caso di idrogeno, quindi leggeri, vengono fatti oscillare attraverso processi che non vi sto a descrivere, tutti insieme, collettivamente, attraverso questa vibrazione comune loro fondono, hanno un processo di fusione, facendo questo processo di fusione liberano dell'energia in forma elettromagnetica, questa energia in forma elettromagnetica scuote i nuclei di uranio e li fissiona. Questo processo, che è quello che le grandi potenze hanno adottato per realizzare queste armi miniaturizzate, è l'opposto di quello che viene usato nella bomba H. Perché vediamo invece in termini militari la fusione nucleare come è stata utilizzata. La fusione nucleare avviene che io ho un insieme di nuclei di deuterio, se questi nuclei di deuterio si incontrano, danno luogo a nuclei di elio che poi decadono, si spezzano, e questo libera dell'energia. Però per far questo, siccome i nuclei sono tutti carichi positivamente, quindi si respingono, è necessario usare una forza superiore che compensi la repulsione elettrostatica. E questa forza deriva dalle collisioni, cioè dall'agitazione termica. Se io questi nuclei io li faccio agitare con una velocità grandissima, lo slancio di questa velocità supera la repulsione elettrostatica. Però per far questo ci vuole una temperatura di svariati milioni di gradi. Solo quando io raggiungo una temperatura di svariati milioni di gradi, i nuclei di idrogeno componenti hanno la capacità di superare la repulsione elettrostatica, di fondere e di dare il botto. Per le applicazioni civili questo non è stato realizzato. Come si fa a realizzare una temperatura di milioni di gradi alla quale ovviamente qualunque materiale esistente sulla Terra si vaporizza e quindi sparisce tutto? Però dal punto di vista militare, se uno non ha problemi di distruttività, il problema è facile, si realizza una bomba a due fasi. Una bomba in cui c'è il deuterio, all'interno del quale scoppia una bomba atomica normale. Allora, la bomba atomica normale produce la temperatura di svariati milioni di gradi e questo fa fondere il deuterio, producendo l'elio e producendo un botto mille volte superiore. Cioè, mentre la potenza di una bomba a fissione si misura in chilotoni, la potenza di una bomba H si misura in megatoni, cioè milioni di tonnellate. Un megatone è un milione di tonnellate di tritolo. Quindi una bomba H di un megatone corrisponde a 50 bombe atomiche da 20 chilotoni l'una. Quindi è un ordine di grandezza superiore. Che funziona, ripeto, a due stadi. Un'esplosione di una bomba a fissione che alza la temperatura in modo sufficiente e questo innesca la fusione. Invece in queste altre armi è l'opposto, è la fusione che innesca la fissione. Cioè si realizza, il vantaggio della fusione fredda appunto è che non richiede temperature elevate, perché i nuclei si fondono non perché forzano, capito, in qualche modo i nuclei a non respingersi, ma perché i nuclei vengono convinti a entrare in un balletto comune nel corso del quale si incontrano e la forza che determina questo balletto, che è di origine elettromagnetica, compensa la repulsione elettrostatica. Tanto per fare una metafora, il problema è la fusione, come il problema di far incontrare due candidati amanti che, se si incontrassero, darebbero luogo a un incontro travolgente, però c'è un ostacolo da superare, il fatto che si sono reciprocamente antipatici e quindi si respingono. Allora ci stanno due modi per vincere questa repulsione: o lo stupro, e questo è il meccanismo della fusione calda, o la seduzione, e questo è il meccanismo della fusione fredda. Chiedo scusa del paragone, ma insomma più o meno rende l'idea. Allora, usando i metodi, ovviamente per avere la fusione fredda, mentre nella fusione calda i nuclei stanno nel vuoto, cioè io realizzo, nella fusione fredda i nuclei debbono essere inseriti in una matrice metallica. Perché? Perché il processo attraverso cui la repulsione elettrostatica tra nuclei viene eliminato è che in mezzo ci stanno gli elettroni del metallo. Allora, gli elettroni sono carichi negativamente, quindi diciamo le zone dove ci stanno gli elettroni sono delle zone che attirano un nucleo da un lato, un nucleo dall'altro lato, i nuclei entrano dentro e quando si vedono l'un l'altro è troppo tardi. È come, riprendendo la metafora di prima, se i due candidati amanti che si sono reciprocamente attivati, antipatici, vengono fatti sedere da un comune amico che sta su un divano, ne piglia una a destra e una a sinistra, li fa avvicinare a se stesso, poi quando sono abbastanza vicini lui si toglie di mezzo e quei due stanno a contatto. E così funziona la fusione fredda. Qui ci vuole il metallo che fornisce gli elettroni che fanno da mezzani. Benissimo, allora l'uranio è un metallo. Allora che cosa si fa? Vabbè, nelle applicazioni pacifiche di cui io mi sono occupato, il metallo ospite era il palladio, la cui fissione non produce nessuna energia, quindi non c'è nessuna bomba coinvolgibile. Allora che succede? Si scioglie il deuterio dentro il palladio, gli elettroni del palladio fanno questo lavoro e quindi i nuclei si fondono e si libera questa energia in forma di un campo elettromagnetico, il quale a sua volta, per una volta formato, mette in agitazione i nuclei del palladio, cioè li scuote, e una parte di questi si spezza. Per esempio, negli esperimenti che abbiamo fatto noi si vedeva che nelle zone dove si era realizzata la fusione fredda il 10% dei nuclei di palladio era sostituito da nuclei di nichel. Il nichel è esattamente mezzo palladio, quindi vuol dire che il nucleo di palladio si era spezzato in due e al suo posto compariva il nichel. Ecco qua. Quindi il fatto che questo processo accade è provato ed esiste così, solo che nel caso del palladio non dà luogo a nessuna applicazione militare, perché per spezzare un nucleo di palladio ci vogliono una quindicina, l'unità di misura, non mi chiedete cosa vuol dire, è l'unità di misura dell'energia che si libera, l'unità di, la quantità di energia necessaria per spezzare un nucleo di palladio è 15 MeV e l'energia che si ricava è 14 MeV. Quindi il processo è in perdita e non succede niente. Invece nel caso dell'uranio ci vogliono sempre 15 MeV per spezzarlo e questo li fornisce il campo elettromagnetico prodotto dalla fusione fredda. E se ne liberano 129, quindi 129 meno 15, ogni nucleo di uranio che si spezza tira fuori 114 MeV e quindi se se ne spezza un numero sufficiente avete il botto. Allora questo tipo di arma come funziona? Dunque, questo processo di fusione fredda avviene quando la concentrazione di nuclei di deuterio all'interno del metallo eccede una soglia. Al di sotto una soglia non avviene, al di sopra una soglia avviene. Allora, supponete che voi caricate un metallo di deuterio lievemente al di sotto della soglia. Dopodiché sparate questo proiettile, allora, di uranio. Allora che succede? Proiettile colpisce il bersaglio, ha una compressione, questa compressione fa salire la concentrazione sopra la soglia, perché a riposo la concentrazione era lievemente al di sotto, quindi sale al di sopra, e avviene il primo fenomeno, cioè la fusione nucleare, che non ha carattere esplosivo, cioè non è un'esplosione per niente, però produce il campo elettromagnetico, il quale comincia a scuotere i nuclei di uranio, che si spezza, e a questo punto viene il botto. Wow, ecco come funziona, semplicissimo. Qual è il vantaggio per i militari? Che non c'è più la massa critica, cioè voi potete pigliare anche un milligrammo di sostanza. E se adesso noi abbiamo che, siccome la massa critica di uranio è circa un chilo, allora un chilo di uranio produce 15 chilotoni, allora un grammo di uranio produce, sarà equivalente a 15 tonnellate di tritolo. Un grammo di uranio voi lo sparate con una pistola e avete il vantaggio che sparando un colpo di pistola ottenete un effetto equivalente a una granata di 15 tonnellate, che più o meno è una bomba grossa della seconda guerra mondiale. Per i militari ci stanno, perché io allora sparando un colpo di pistola faccio crollare un palazzo. Benissimo. Questo è così, va bene, diciamo, questo effetto si possono realizzare armi per la fanteria, eccetera.